Trovate due segnalazioni per concludere. Tanti articoli sulla morte di Carlo Fruttero, lo scrittore che con Lucentini ha avuto il suo grande successo, è morto, e ci sono sia Ezio Mauro, direttore di Repubblica, Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa. Ve li segnalo solo così, se li volete trovare, come articoli che ricordano la grande figura di Carlo Fruttero, scomparso a 85 anni. E che dire, bisognerebbe parlare anche del calcio, insomma, questo impone il lunedì. Il titolo della Gazzetta dello Sport, saluto tutti gli interisti che mi hanno mandato sms, urlo Inter, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, ma d'altronde Peter Bescapè dice che il football americano va benissimo per quel che li riguarda. Per quel che riguarda me, la Pro Sesto non ha ancora ripreso il campionato, in promozione, anzi in eccellenza, scusate, nel girone A della regione Lombardia, dunque il calcio è questo che conta. Per chi invece segue la Serie A, urlo Inter è il titolo della Gazzetta 24 mattino. Buongiorno, eccoci ancora, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, inizia una settimana decisiva, il menù prevede soprattutto liberalizzazioni. Ne vogliamo discutere con il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Ben ritrovato, buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno Milan. Allora, tanto prima di parlare di queste cose mi ha colpito che anche lei oggi si è cimentato sulla crociera, nell'editoriale del Foglio del lunedì. L'ha colpita questa tragedia? Beh sì, è una cosa così drammatica, così terribile, con tanti che mancano all'appello, con sei morti già ormai. Ma poi voglio dire, le modalità del fatto sono pazzesche, direi, no? Sì, incredibile, incredibile, sì. Questo inchino all'isola del Giglio. Comunque, vedrà la procura. Senta, allora, liberalizzazione. Intanto inizia la settimana, ma abbiamo finito con questo schiaffone. Le piace l'immagine del ministro Fornero che ha detto abbiamo preso un bello schiaffone dall'agenzia di rating? Sì, sì, sì, anche se naturalmente, insomma... Lo schiaffone riguarda poi direttamente tutti noi, i cittadini, le imprese, i lavoratori, insomma, schiaffone, sì, diciamo così, abbiamo preso una sberla, secondo me è più di questo, ma insomma, cioè è la dimostrazione, è la prova che se non si fa una cosa semplice, però radicale, come quella di battere moneta e di difendere l'euro, non si uscirà da questo dramma, da questo problema, perché ormai ci siamo dentro, e con provvedimenti che tendono da un lato a impoverire l'economia, impoverire i consumi, impoverire i redditi, oppure a riequilibrare, come è giusto, la tassazione con una decisa botta all'evasione fiscale, e dall'altra parte con le liberalizzazioni che così, diciamo, hanno bisogno di tempo per funzionare, e non so quanto possano oggi concretamente dare in termini di sviluppo del paese. Con queste due leve non credo che riusciremo a uscire dal... La soluzione è quella, ma la Banca Centrale Europea non ci sente, pare, da quell'orecchio. Ho capito, però insomma bisognerà cominciare a porre la questione come una questione di Stato, di Stato, come una questione, diciamo, che riguarda direttamente il circuito dell'area dell'euro. Non è possibile che l'Inghilterra abbia la tripla A avendo avuto le banche nazionalizzate, il sistema finanziario sconvolto, una situazione dell'occupazione e dello stesso sviluppo pessimo. Non è possibile che gli inglesi abbiano il 2% di tassi di interesse, cioè molto meno della metà, di un terzo di quelli dell'area più indebitata, che sta mettendo in pericolo l'euro, solo per il fatto che la sterlina ha una banca che la difende. Insomma, bisogna che ce ne rendiamo conto. Però Cameron infatti è in minoranza su questo, no? Cioè il trattato europeo, no, me ne sto fuori, la Tobin tax, no, me ne sto fuori. Sì, lei sa come dicono sempre gli inglesi, nebbia nella manica, il continente è trovato dall'Inghilterra, cioè Cameron è emarginato, è ostracizzato, è in conflitto, corre anche lui naturalmente dei rischi, ma ripeto, è così chiaro quello che si deve fare, ed è così oscuro il fatto, il perché non lo si faccia, che io veramente, insomma, sono tramortito. Adesso le borse asiatiche stanno aprendo male, insomma ci sarà un'altra settimana probabilmente di passione, di altalena, di passione, e tutto questo perché noi abbiamo l'unica moneta del mondo che diciamo, non ha qualcuno che dica, beh, io garantisco la moneta, ma è assurdo. Senta, intanto non mi dica da liberale qual è lei che non le piace almeno un Monti che ci prova sul fronte liberalizzazione. Che dovrebbe fare con i tassisti, che ne so, Monti, o con le categorie che si mettono di traverso? Ma guardi, lì bisogna fare dei compromessi intelligenti, cioè andare avanti sulla linea di rendere più facile l'accesso alle professioni, aumentare la base, l'impianto. Naturalmente poi le professioni hanno tutte una loro caratteristica, insomma, no? Insomma, in tutto il mondo le automobili che fanno servizio pubblico sono contingentate, non sarà un caso questo, no? Non c'è proprio una totale libertà di prendere la patente, andare in un ufficio, mettere un timbro, pagare una piccola tassa e cominciare a guidare la gente in giro per le strade. La cosa è un po' più complessa. Naturalmente qui è troppo complessa, qui è troppo una professione chiusa e quindi bisogna riuscire con il consenso, se possibile, almeno di una larga maggioranza dei conducenti di taxi a introdurre principi ed elementi di liberalizzazione. Però sappiamo tutti che sono questioni, non dico simboliche, sono sì, questioni anche importanti, ma che riguardano una parte molto ristretta. Sì, ci sono liberalizzazioni ben più importanti da sì, produrre. Beh, insomma, paghiamo l'energia il 30% di più, appunto, quello. Però almeno voglio dire, ieri tra l'altro lei ha fatto un editoriale sul giornale dicendo, appellandosi anche a Berlusconi, tra l'altro l'ha sentito di recente, no? No, non lo sento no, da un po' di tempo. Però che ne dice di Monti che oggi convoca i maggiori segretari di partito? Cioè sono i partiti che si riprendono la politica, lo scenario della politica, o Monti che ha bisogno dell'appoggio dei partiti? Com'è lì la vicenda? Ma direi che per la prima volta i partiti, diciamo, gettano la maschera, come si dice, dopo la formazione di questo governo. Non fanno più incontri clandestini, chiacchiericci di corridoio, oppure incontri bilaterali col Presidente del Consiglio, si vedono tutti insieme. Sarà una cosa ancora un po' procedurale, un po' quelle cose insomma che all'inizio sono ancora un po' impacciate. Ma io spero, d'altra parte, insomma, c'è un governo tecnico che deve fare delle cose, le deve fare con l'appoggio di una grande maggioranza parlamentare consapevole, perché non si può stare sempre lì a mugugnare, a fare delle finte proteste, a cavalcare, ma senza vera convinzione, perché in realtà la maggioranza fino adesso come maggioranza del governo ha funzionato. E dall'altra parte c'è l'orologio, devono, quando si vedranno oggi a pranzo, devono guardare l'orologio, il calendario e vedere quello che succede. Succede che tra un anno si vota, un anno e qualche mese. Quindi arriva alla fine Monti, secondo te? No, non è questione che arriva alla fine Monti, è questione che devono decidere che cosa fare. Cioè questi sono partiti che sono stati condannati, l'uno a non essere in grado di governare la coalizione con dentro il PDL come elemento guida, e l'altro a non saper fare l'opposizione, un'opposizione alternativa capace di formare un governo di alternativa. Quindi è la massima condanna possibile. Come si riscattano da questa condanna? Che cosa propongono ai cittadini che fra un anno andranno a votare? Chiacchiere? Mugugni? Banalità? Difese corporative, difese di piccole posizioni sociali, no, devono proporre una grande riforma del sistema. Noi dobbiamo avere una sola certezza, resti Monti, arrivi un marziano, vinca Bersani, vinca Alfano, vinca chi volete, la certezza è che chi governerà il paese non sarà sottoposto al meccanismo paralizzante che impedisce di prendere delle decisioni discusse democraticamente con i cittadini per il bene comune. Se non riusciamo ad avere un sistema che garantisce questo, e naturalmente un'opposizione che è capace di che è messa in grado di diventare governo al posto del governo se questo governo non ce la fa, sarà tutto tempo perso. Si ritornerà come... E Berlusconi in questo che c'entra più Berlusconi? C'è ancora un ruolo? Ma, insomma, Berlusconi ovviamente ha ancora un ruolo, perché per quanto si sia tirato fuori, per quanto insomma, è pur sempre il leader storico di questo partito, che è ancora oggi il partito di maggioranza del Parlamento, insomma, no? Quindi ancora un ruolo. Ha numeri importanti. Adesso non so i sondaggi, i consensi, ma lasciamo perdere, questo viene dopo. Quello che viene prima è la domanda, ma Berlusconi cosa fa? Io mi chiedo nell'articolo di ieri sul giornale. Cosa fa? Appunto, si riposa, oppure aspetta che maturino le condizioni per essere rimpianto e quindi per una grande nemesi, per una grande vendetta, dicendo avete visto che non era cosa sacrosanta peraltro, esclusivamente mia la colpa di come andavano le cose, avete visto che non è facile risolvere il problema della crisi dell'euro e quindi poi tornare e magari rifare con la Lega una coalizione periclitante in cui non si capisce se si fanno le riforme oppure se si fa la secessione oppure se si esce dall'euro, insomma dovrebbe chiarire che cosa vuole fare, qual è l'identità del PDL. Secondo me l'unica che può essere quella di proporre all'opposizione oggi una grande riforma del sistema. Nel salutarla e ringraziarla, Aldo Grasso ha chiesto un bel faccia a faccia Monti Ferrara, ci sarà mai? Lei è disponibile? Ma certo che sono in disponibile, TV. Però non è, diciamo, non è nell'ordine delle cose, perché oggi i talk show e in genere in televisione le rubriche nelle quali si fanno le lunghe interviste sono altre, io faccio un commentino di 6 minuti, in qualche modo il mio commentino è un faccia a faccia, dialogo, senza Monti però, chissà Monti. Non poniamo limiti, intanto la ringrazio, buona grazie giornata a lei, Giuliano grazie, Ferrara, grazie direttore del Foglio, ci fermiamo per la pubblicità in mente e poi i costi delle regioni a statuto speciale. 24 mattino. Allora, alle 8:37 minuti, vogliamo parlare un po' di costi delle regioni a statuto speciale. Lo facciamo intanto con Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, che saluto. Grazie Stella per essere con noi. Buongiorno a voi. Licenziare i padri eterni è l'ultimo libro con Sergio Rizzo contro la casta. Le diamo in pasto, Stella, in pasto, giornalisticamente parlando. Due rappresentanti di regioni autonome. Saluto Rosa Thaler, presidente della Assemblea regionale del Trentino Alto Adige, buongiorno signora. Buongiorno Tale. A tutti. Saluto anche Francesco Cascio, è un ritorno presidente dell'Assemblea regionale siciliana, buongiorno presidente Cascio. Eccoci, buongiorno. Eccoci. Allora intanto Rosa Thaler, stipendio lo dichiari per cortesia, perché abbiamo letto cifre che ci deve confermare. Sì, lei vuole stipendio lordo o quello netto? Faccia perché lei, faccia lei. È un po' di differenza. Cominciamo allora dal lordo. Ecco, il lordo sono per la Presidente 20.000 euro, per i consiglieri circa 14.000 euro, il netto sono 9.500 per la Presidente e 6.080 per i consiglieri. Cioè, scusi, 20.000 lordi al mese, 9.500 netti, mannaggia quante tasse che pagate su questi... Non sono solo le tasse, noi abbiamo un sistema un po' speciale, quanto il lordo contiene tutti i costi per il vitalizio e tutti i costi per il fine mandato che già da 3 legislature sono a totale carico dei consiglieri, quindi il lordo si aumenta di molto in confronto al netto e per questo anche il paragone è molto difficile. In ogni caso 9.500 euro netti al mese sono tanti, secondo lei sono troppi o sono giusti? Sono tanti, è vero, ma mi stupisce un po' per questo attacco, perché confrontando con i presidenti delle altre regioni italiane, anche con quelli a statuto ordinario, siamo nella media. Nella media. Lo chiedo anche a Cascio, il suo stipendio da presidente dell'ARS? Ma io, compreso di indennità di funzione, guadagno netti 11.500 euro. 11.500. Stella, vogliamo partire da qui. La Sicilia guadagna 2.500 in più. Beh, sono due ruoli diversi, anche l'Assemblea regionale del Trentino e l'Assemblea regionale siciliana. Però, insomma, questi stipendi devono farci sobbalzare oppure siamo... Ma parto da una considerazione che faceva durante un dibattito qualche giorno fa Ugo Sposetti, che è il tesoriere del Partito Democratico, meglio, tesoriere di DS, poi non è chiaro come poi per i rami siano scese le cose, e che diceva ma anche voi giornalisti quando andate a fare un servizio venite rimborsati, quindi i rimborsi non vanno calcolati. Non è così, perché se io vado a fare un servizio, se tu mi vai a fare un servizio, tu presenti la ricevuta del treno, certo, la ricevuta dell'aereo, la ricevuta dell'albergo, la ricevuta del ristorante. Quello che si contesta è che si è sempre fatto confusione su queste cose, perché tradizionalmente in linea di massima, salvo eccezioni che però io sinceramente non conosco, nel mondo della politica si rimborsa forfè, per cui il parlamentare Scilipoti può benissimo dire che lui viene rimborsato, che lui non può calcolare i soldi che dà il portaborse perché quelli lì sono per il portaborse, ma se poi lui si rimette in tasca e dà al portaborse 600 euro, come così dice la denuncia che è stata fatta contro Scilipoti dal suo collaboratore, quei soldi lì come li contiamo? Per esempio, Stella aveva fatto notare che ci sono delle anche delle cosiddette le diarie in Sicilia anche per chi sta a Palermo, dove c'è l'Assemblea regionale siciliana. È vero, Presidente Cascio, cioè ci sono delle indennità di 4.178 euro per lo svolgimento di mandato anche per chi... Diciamo che la busta paga del parlamentare regionale contiene una serie di voci. Una di queste voci è la diaria. La diaria, nel caso di tutti i parlamentari siciliani, è 3.500 euro, ma fa parte degli 11.500 di cui parlavo poco fa. Certo. Non è una voce accessoria, è dentro quegli 11.500. Però 3.500 euro per stare a Palermo anche per chi è di Palermo. Ecco, allora vogliamo spaccare il pelo in quattro, sì, anche per stare a Palermo. Non è quello il punto è contribuire alla voce dello stipendio, cioè la diaria nasce come voce alternativa all'indennità, ma è chiaro che contribuisce allo stipendio nel suo complesso. Sì, cioè, però se non ci fosse questa diaria di 3.500 euro, il netto scenderebbe, voglio dire, o l'ordo scenderebbe. Nel mio caso da 11.500, meno 3.500, 8.000 euro. Infatti, netto. Stella, il fatto di stare a Palermo e avere 3.500 euro netti per stare a Palermo, per esempio di diaria, è una cosa un po'... Questo sì ci deve fare un po' incazzare, devo dire. Dà da pensare, no? Su questo credo che la soluzione sia molto semplice, vale per la Sicilia, vale per l'Alto Adige, vale per il Trentino, per la Val d'Aosta, eccetera, eccetera. Si fece una indennità bella, pulita, trasparente e poi si rimborsa tutto a piedi lista. Uno porta le ricevute, dimostra che è andato in un posto, cioè io metto fuori le ricevute se vado via per lavoro, non se vado in vacanza, dimostra che è andato via per lavoro a fare quella cosa là, viene rimborsato. Per quanto riguarda il portaborse, per esempio, è molto semplice, cioè paga direttamente il portaborse il Parlamento e non se ne parla più. Vorrei far notare che ogni volta si tocca questo tema i parlamentari dicono adesso lo facciamo e l'inquadramento, il contrattino di inquadramento possibile per i portaborse è stato predisposto dall'INPS nel 1987, parlo quest'anno di 25 anni fa, quindi è una vera truffa dire adesso lo facciamo, una truffa. Questo che viene sempre detto. Rosa Thaler, perché lei dice non capisce questo attacco, che attacco non capisce sul fatto dello stipendio? Io non ho capito l'attacco alla nostra regione, alla nostra provincia, non in per sé, che in tempi dove tutti devono risparmiare, i politici siano nell'occhio del ciclone, perfettamente capibile. Ma si riferisce forse a un'inchiesta di un giornale che ha messo a confronto, diciamo, quello che guadagnate voi e quello che guadagnano magari al di là del confine, di poco, ecco, in Austria. Anche quello, ma soprattutto anche l'attacco, ho visto la settimana scorsa, al presidente dell'AI, che poi è assolutamente, cioè noi siamo assolutamente nella media, addirittura con i consiglieri siamo quasi gli ultimi per quanto riguarda le regioni italiane, comprese quelle a statuto ordinario. Adesso il confronto con tutti quelli fuori, compreso Obama, Merkel e chi so io, è poco serio, perché non si può fare lordo se non si sa quanto siano le detrazioni, perché io non so quanto un consigliere o un presidente dell'Austria, della Germania, quanto paga di netto, perché il concetto quanto è... Quanto prende di netto, perché io non so cosa è da tassare, cosa è detassato, né quale percentuale. Cioè lei ce l'ha solo col fatto che ha fatto notare che lei prende 20.000 euro di lordo, mentre Sarkozy ne prende 21.300 euro, per cui paragonare due lordi, secondo lei, è sbagliato, due lordi di stipendio è sbagliato, perché poi lei ne prende 9.500 netti, questo ci vuol dire. Io dico, il paragone è difficile, io mi sono letta anche attentamente la relazione della Commissione Giovannini, dove pure lì, pur avendo tutti gli strumenti per poter cercare tutti i dati anche negli altri stati europei, anche lì alla fine dice è molto difficile paragonare. Ma per questo io dico solo il paragone, poi che dobbiamo cercare di contenere i costi della politica, questo è così, e tutti noi siamo disposti. Adesso verrà questa proposta della Commissione Giovannini entro gennaio anche per le regioni, per i consigli regionali, sì. E dopo ci adatteremo, vedremo, mica nessuno dice... Sì, questa effettivamente però suona un po', come dice Gian Antonio Stella, dopo faremo, o comunque facciamo, bisogna fare, l'abbiamo sentita parecchio. In ogni caso, sentiamo noi abbiamo fatto dal 96, già nel 96 abbiamo portato il diritto del vitalizio a 10 anni, a 65 anni, cosa che non ha fatto nessun'altra regione, con un contributo molto alto. Stiamo contenendo, i stipendi non stanno più salendo in tutta la legislatura, sì. Abbiamo congelato l'aumento Istat, abbiamo tolto il 10% della diaria. Ma su questo ci sono regioni che il vitalizio l'hanno anche abolito a partire dalla prossima legislatura, come la regione Emilia Romagna per esempio. Avevamo chiamato il nostro presidente Richetti da lì. Allora, si leggono qualche notizia, presidente Cascio, per esempio nei giorni scorsi abbiamo letto questa: per un'intera legislatura dal 2001 al 2006 700 persone hanno usufruito di schede telefoniche pagate dall'Assemblea regionale siciliana, che veniva data a schede telefoniche date ai deputati siciliani, che poi finivano ad amici, parenti, eccetera. C'è da dire, bisogna darle atto che lei se n'è accorto, ecco, quando è arrivato nella nuova... Però succedono anche queste cose, capisce? Scusi, posso parlare? Sì. No, dica, cerco di interrompere, ma capisco che quando lei deve completare, diciamo, una frase che ha già preventivato, insomma, non è così, non è appagato l'Assemblea regionale, per cui mi dispiace che lei dia questa notizia, perché è stata scritta anche sui giornali nazionali il giorno dopo, è stata fatta una correzione. È vero che l'Assemblea ha fatto una convenzione con la Telecom Italia Mobile per distribuire delle schede con una tariffa, diciamo, particolare a chiunque ne facesse richiesta dall'Assemblea Regione Siciliana, quindi anche ad amici, parenti, segretari, eccetera, ma è altrettanto vero che se li pagavano i deputati queste schede telefoniche. Cioè l'Assemblea faceva, come in tante altre convenzioni, da tramite, ma poi il contratto lo stipulava il parlamentare, che prendeva 10 schede, per esempio, no? E le distribuiva a chi voleva lui, fermo restando che le schede erano intestate al suo, diciamo, addebitato al suo conto corrente, cioè se le pagava diciamo a prezzo agevolato. Questa era la convenzione, sì, con te. Però sì, diciamo che ecco, nasceva come una tariffa agevolata che pagava il deputato per tutte le schede che prendeva. Di fatto si è scoperta che poi così agevolata questa tariffa non era, tant'è vero che tutti i deputati che hanno stipulato quella convenzione nel giro di 2 anni al massimo l'hanno convertita in altra convenzione, perché con quella convenzione, diciamo, a tariffa agevolata pagavano 5 volte di più di quanto pagavano per esempio col prepagato, sì. Per cui diciamo una bella esperienza che credo nessun deputato vorrà più ripetere, né per se stesso né per il suo. So che la procura però sta indagando. In ogni caso, Gian Antonio Stella, qui c'è Rosa Thaler che insomma si lamenta un po' del, io posso dire anche demagogia a questo punto, non l'ha detta la parola, ma sembrava un po' questa l'accusa. Poi ha scritto un lungo articolo paragonando appunto i vari stipendi, quanto si guadagna in Trentino Alto Adige, quanto guadagna Obama, quanto guadagna Sarkozy. È demagogia oppure è voler vedere e fare informazione per capire come mai i costi così alti e stipendi così alti? Allora, siccome col Trentino Alto Adige, in Trentino Alto Adige sono in qualche modo perfino più permalosi che in Calabria su alcune cose, facciamo la solita premessa. Allora, premesso che in Trentino Alto Adige si governa meglio che nel resto d'Italia, premesso che sono stati molto bravi a fare tante cose, premesso che si fanno carico di competenze che in altre regioni sono invece a carico dello Stato, premesso che si pagano anche i professori, premesso che tutto questo, fatto sta che questi dati non sono miei, ma sono di un giornale tedesco di Bolzano, che più tutto può essere accusato meno che di essere antiautonomista. Ci siamo? Punto primo. Punto secondo, premesso che tutto quello che abbiamo detto, premesso tutto questo, io chiedo se risponde la signora Thaler se nel Tirolo del Nord sono pagati lo stesso o sono pagati di meno. Sentiamo, Thaler. Certo che non sono pagati uguali, ma si deve sapere che il Tirolo del Nord ha pochissime competenze e che in tutto l'anno hanno 7 sedute, cioè ognuno dei consiglieri va dietro al proprio lavoro. Quello che dico io è che non so se il posto lordo del consigliere o del presidente nel Tirolo del Nord contiene sì. anche il costo. Lei si focalizza su questa cosa delle tasse, però mi scusi, no, tale, sulla, se vogliamo andare sulle competenze. Deve farlo con una regione italiana che è simile almeno. Però, Thaler, mi perdoni, se andiamo sulle competenze, l'assemblea regionale del Trentino, adesso guardi, gliela dico brutalmente, a cosa serve? Perché il presidente del Trentino, cioè è una regione particolare in cui il presidente è a turno o il presidente della provincia di Bolzano o il presidente della provincia di Trento, sono province autonome, cioè il suo ruolo a cosa serve se lo paragoniamo al presidente del consiglio della regione Lombardia o siciliana? Ecco, è sempre ancora una istituzione con 70 consiglieri, poi si deve dire che noi tutti facciamo i consiglieri sia provinciali che regionali, anche la regione ha ancora competenze, il mio partito chiede da tempo lo scioglimento di questa regione, finché la regione c'è e finché ha competenze legislative ci sarà anche il consiglio regionale. Cioè, però lei dice, lei non, per lei anche lei chiede lo scioglimento dell'assemblea che presiede? Io non lo chiedo, io ho detto il mio partito, io sono di un'altra opinione, secondo me due regioni assieme, ma questa è una questione politica, non si può dire finché un'istituzione c'è e finché questa istituzione lavora, cioè anche il consiglio certo, regionale. Certo, va pagato, però è interessante, Stella, hai sentito, no. Cioè il partito di cui fa parte la Thaler, che è l'SVP credo, chiede lo scioglimento dell'organismo che lei presiede, lei non lo ma chiede. Certo. È ovvio che lo chiede, perché il Sud Tirolo ha avviato un percorso, non da adesso, ma da decenni, che punta a agganciarsi il più possibile. Insomma, la regione attuale era una trappola, e lo dico io, la signora Thaler sa benissimo di cosa parlo e vede che non sono prevenuto per niente. Era una trappola per tenere dentro la minoranza tedesca dentro una maggioranza italiana. I tedeschi, giustamente a mio avviso, si sono ribellati a questo trappolone de Gasperiano, romano, diciamo così, e quindi puntano da sempre a svuotare la regione. Solo che quello che è ridicolo è che contemporaneamente, voglio dire, il presidente regionale se lo pigliano e prende anche un'indennità, pur avendo una funzione zero. Però la signora Thaler dice: io non so, personalmente non sono per lo scioglimento. Il mio partito invece sì, insomma, è per lo scioglimento di questo organismo che presiedo. In ogni caso, guardate, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare da Rosa Thaler, presidente dell'Assemblea regionale del Trentino, così come Gian Antonio Stella, di cui voglio ancora ricordare con Sergio Rizzo licenziare i Padri Eterni, e ringrazio anche Francesco Cascio dell'Assemblea regionale siciliana. Allora, che dire, voi trovateci ancora su Facebook, la nostra pagina è 24 mattino su Facebook e ci trovate domani mattina alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.